Essere e benessere di Nicoletta Carbone. In questi giorni io mi sono guardato un po' in giro e ho osservato con una certa attenzione gli sguardi per strada, in metropolitana, al bar, in redazione, al parco, quando esco col mio cane, e ho intercettato sguardi di sconosciuti, di colleghi, ho anche colto istantanei rapidi passaggi di sguardi. Bene, un esercizio che suggerisco anche a voi, perché fatto con un po' di garbo, naturalmente senza insistenza, aiuta a prendere consapevolezza del grande potere comunicativo dello sguardo. Gli occhi parlano e raccontano. Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Interessato, sfuggente, autoritario, dolce, interlocutorio, distratto. Con uno sguardo possiamo esprimere amore, ammirazione, rifiuto, simpatia, interesse, e da uno sguardo ci sentiamo giudicati, rifiutati, accettati, desiderati, perché lo sguardo altrui ci condiziona e può cambiare anche i nostri comportamenti. Vi sarà capitato di essere stati fermati da uno sguardo? Tornate indietro nel tempo, quando eravate bambini, oppure ripensate a quella volta in cui stavate per dire o per fare, ma sentendovi gli occhi addosso avete desistito. Ma gli occhi, prima di parlare, vedono, recuperano informazioni. Se paragoniamo gli occhi ad una macchina fotografica, diciamo che fanno delle istantanee che poi opportunamente composte vengono elaborate dal nostro cervello. Io l'ho fatta molto semplice, ma qui ho il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano, che è pronto, lo intuisco dallo sguardo, esatto, a dire la sua, a correggermi. Buongiorno. No, buongiorno. In realtà è vero, i nostri sguardi sono importantissimi e continui. Vediamo però non solo con gli occhi ma anche con la mente. Quante volte abbiamo guardato la nostra scrivania affollata di cose e non vediamo con lo sguardo quello che troviamo, quindi vediamo anche col cervello. A me capita sempre, certo. Esatto. E fra l'altro, una cosa che è vero, il nostro occhio potrebbe essere come una macchina fotografica, ma in realtà la nostra retina è fatta di tantissimi strati e di tantissime interrelazioni, è già di per sé stessa un computer che elabora le immagini e poi le invia al cervello, quindi la cosa è molto più complessa di così. In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Asso Mensana. Professore, bentornato. Buongiorno a lei, Nicoletta, al suo illustre ospite e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professor Iannoccari, siamo quello che vediamo? Siamo quello che vediamo, sì. Per i normovedenti, in effetti, l'esperienza e il sapere passa attraverso la vista. E il senso della vista ha un rapporto particolare col nostro cervello. Infatti pensiamo che il cervello ha dedicato un'area molto importante per questo senso, grande quanto una banconota da 20 euro, mentre ad esempio il linguaggio occupa solo lo spazio di due monete da 20 centesimi. In più, la vista ha anche un rapporto privilegiato con la memoria. Infatti certo, noi impariamo attraverso le immagini, oltre che attraverso le parole, e sono gli occhi che ci aiutano anche ad orientarci nello spazio. Come lei ha detto prima in apertura, con gli occhi si comunica, è vero, uno sguardo vale più di mille parole. Questo significa che lo sguardo non è solo un sistema di raccolta di informazioni, ma anche di produzione di informazioni. Beh, diciamo, tornando al mio ambito, quello che mi è più familiare, quello neuropsicologico, quello che desidero fare con voi oggi è suggerirvi alcuni consigli per usare al meglio questo senso. È logico che non possiamo prestare attenzione a tutto quello su cui possiamo lo sguardo, ed ecco che si spiega così, perché vediamo col cervello, ma è anche vero che il nostro cervello potrebbe decidere di non vedere ciò che i nostri occhi catturano. Ad esempio, se stiamo camminando e siamo assorti nei nostri pensieri, anche se vediamo una persona amica, potremmo anche non salutarla. Quindi è il cervello alla fine che decide ciò che deve essere portato alla nostra attenzione. Ecco, è opportuno usare gli occhi a nostro vantaggio, quindi, per ottenere benefici nel breve e nel lungo periodo. E in questo caso è una questione di testa, e come diciamo noi di Asso Mensana, tutto ciò che riguarda la testa può essere allenato. Allora, professore, cominciamo ad orientarci. Sì, partiamo dall'orientamento. Allora, è vero che il navigatore ormai lo fa da padrona per l'orientamento, per spostarci, ma noi possiamo anche evitare di delegare tutto a questo strumento. Ad esempio facciamo così: mentre siamo in viaggio cerchiamo attentamente nell'ambiente tutti i punti di riferimento principali, come ad esempio i palazzi caratteristici, i monumenti, alberi particolari, fontane, eccetera, tutto ciò che può essere, diciamo, un punto di riferimento, un landmark sul territorio. Questo ci è utile per orientarci, ma immagino funga un po' da allenamento anche per sviluppare altre attività, altre abilità. Altre abilità, e sono anche molto importanti. Ad esempio, in questo modo noi che cosa sviluppiamo? Sviluppiamo l'attenzione selettiva, cioè quella di saper focalizzare la nostra attenzione su alcuni dettagli dell'ambiente, e anche la concentrazione. Queste due funzioni cognitive sono molto utili per cosa? Per potenziare ad esempio la memoria topografica, per potenziare le abilità di pianificazione del percorso che dobbiamo fare. Quindi ha dei risvolti molto interessanti. Adesso, professore, leggiamo, posiamo il nostro sguardo sulle pagine di un quotidiano. Sì, un ottimo esercizio che possiamo fare con la nostra vista mentale è il seguente. Posiamo lo sguardo sulle pagine di un quotidiano e cerchiamo rapidamente, ad esempio, dove si trova la data del quotidiano. Sì. Poi possiamo cercare, sfogliando velocemente le scritte, se c'è la parola benessere. Oppure possiamo focalizzare la nostra attenzione sulle fotografie, ad esempio individuando quelle dove ci sono uomini con la cravatta, oppure dove è rappresentato un animale, eccetera, tutto ciò che è un dettaglio nell'ambiente. Quindi in questo modo alleniamo un po' la nostra attenzione, la nostra concentrazione, fondamentali per archiviare le informazioni nel grande archivio della nostra memoria, e in qualche modo aguzziamo anche la vista. Aguzziamo anche la vista, che è la nostra base per poter poi vedere effettivamente ciò che ci circonda. Possiamo fare anche un esercizio, ad esempio, se lei mi piace, lo ritiene. Sì. Facciamo ecco, un esercizio. Facciamo un esercizio di aguzzamento della vista. Sì. Ad esempio, allora, ciascun radioascoltatore può posizionarsi nel suo ambiente e cercare rapidamente, ad esempio in 15 secondi, tutti gli oggetti che sono di colore giallo. Per cui devi focalizzare l'attenzione su ogni singolo particolare per individuare il maggior numero di questi oggetti di colore giallo. Cerca il giallo, allora. Questo, tra l'altro, è un esercizio che possono fare tutti, tranne chi in questo momento è al volante, ed è un esercizio che possiamo fare, un giochino che possiamo far fare anche ai nostri bambini per tenerli buoni in macchina. Cioè, io mi ricordo che, ad esempio, andando al mare noi contavamo le palme, e passando dal, no? E quindi questo aiuta i bambini a non annoiarsi troppo e nello stesso tempo aguzza la vista. Lei quanti dettagli gialli ha intorno, professor Iannoccari? Io non immaginavo che lei mi facesse questa domanda. A 15 secondi di tempo e poi può richiamarci. 800 24 00 24, l'ho preso in castagna, grazie professore. Grazie a lei, Nicoletta. Dottor Scialdone, questo però esercizio, che possiamo chiamare occhio al dettaglio, può funzionare anche come autotest per la nostra vista? Sì, può funzionare come autotest. Vediamo, un test per la nostra era digitale. Al computer, ormai molti hanno un computer, anche persone non più in età lavorativa. Allora, quando siamo davanti al computer, mettiamoci a una distanza di 60-70 centimetri, chiudiamo un occhio per volta. Sì. Dobbiamo avvicinarci per vedere meglio un'icona piccola piccola con le scritte piccole piccole sullo schermo, vuol dire che molto probabilmente siamo leggermente miopi. Sì. Se invece dobbiamo cercare di allontanarci per vedere le cose più rilassate, molto probabilmente, se siamo trentenni o trentacinquenni, siamo ipermetropi. Quindi può essere un aiuto per cercare di andare. Molte persone oggi, tra i 30 e i 40 anni, sono ipermetropi, accusano molti fastidi, perché ormai tutti lavorano 10-15 ore al computer tutti i giorni, e non ce la fanno più e non capiscono come mai, quindi ricorrono a cose più o meno fantasiose con i rivali, ma non risolvono i problemi. 800 24 0024 se volete parlare di sguardo, di vista. Roberto ci chiama da Milano. Buongiorno Roberto, benvenuto. Buongiorno, se posso chiamarla Nicoletta, e complimenti per la trasmissione. Ma mi fa molto piacere, io sono Nicoletta. Molto bene. Dunque, guardi, io sono un grande appassionato di questa materia un po' antropologica, perché fa comunque parte di questa parentesi umana. Sì. E credo che oltre alla, diciamo, fotografia istantanea che lei accennava prima, lo sguardo è anche un po' una specie di, diciamo così, apertura focale e che può essere più o meno densa e penetrante, no? Ritengo però una cosa importante che volevo dire anche ai professori per avere poi un loro commento, che adesso l'esercizio del colore che il professore accennava è immediato. Io credo che a livello intellettuale ci sono persone, questo lo riscontro nella mia figura specifica, che vivono con il warning sempre acceso alla ricerca del dettaglio, con la vista, con il dito, con l'olfatto e tutto il resto. Per cui è probabilmente anche, ma credo, un dono di natura, ma si scoprono delle cose con questo tipo di attenzione che sono fantastiche anche nel semplice diciamo quotidiano. Per cui è un consiglio che do a tutti: provare ad allenare il proprio cervello a questa massima allerta, a questa massima attenzione nella ricerca delle cose sottili, piccole, specifiche, dettagliate, perché si vede un mondo completamente nuovo. Grazie allora, Roberto. Posso permettermi, certo, di dare io un consiglio che forse tutti i consigli mi piacciono. Il nostro Iannoccari neuropsicologo potrebbe approvare. Cerchiamo di spegnere il cervello. Meno pensiamo tutto il giorno assorti nei nostri pensieri, più il cervello spontaneamente vede i particolari. E quindi possiamo coglierli. Esatto, meno rivolti dentro, più rivolti fuori. Grazie a Roberto. 800 24 0024. Dottor Scialdone, abbiamo fatto questo esercizio, abbiamo suggerito l'esercizio al computer, possiamo farlo anche con il cellulare, giusto? Ah, certo. Andiamo a caccia del dettaglio, ma non sono solamente non è solamente il modo in cui noi notiamo i dettagli che misura il benessere della nostra vista, ma anche altri segnali, e alcuni sono fastidiosi e tendiamo un po' a trascurarli, non capiamo bene quale sia, no, la causa che ci sta a monte. Volevo ricordarne alcuni. Ad esempio, in questo momento, che finalmente sembra che sia arrivata l'estate, la luce è più intensa, ma molte persone anche qua in redazione mi dicono: sai che questa luce mi dà fastidio? Ecco, quasi che l'occhio inizia a lacrimare, hai proprio la necessità di mettere gli occhiali da sole. O magari dà fastidio la mancanza di luce. Questo è un indicatore che può dirci qualche cosa della salute della nostra vista? Certo, un fastidio alla luce in questo periodo in cui c'è non solo l'arrivo della primavera, ma anche ancora i segnali della fioritura e delle piante, può essere un piccolo stimolo a cercare un'eventuale allergia. Sì. Persone allergiche alle piante o ad altro, o ai fiori, possono avere come fastidio alla luce, è un segno collaterale e quindi va inquadrato in quel senso lì, soprattutto per esempio i bambini che strizzano gli occhi, continuano a guardarsi in giro, hanno l'occhietto un pochino rossino, rosato. Sì. E hanno, certo, bisogno. Il segnale alla luce può essere anche un segnale nelle persone anziane di iniziale cataratta, per esempio. Nelle persone giovani può essere un segno di visione astigmatica. Quindi raccontateci i segnali che i vostri occhi vi mandano quando osservate magari un oggetto in modo, no, fissato un oggetto, o quando siete al lavoro o al computer, quando guidate, quando vi sentite affaticati. Parlateci del vostro sguardo e degli sguardi che si posano su di voi. Signori, sto cercando di guardare al mare, qualcuno laggiù, vi dispiacerebbe spostarvi così posso... Avete capito. Grazie, signori. Molto gentili, vi ringrazio. Grazie. ragazzi, andiamo, sono l'unico a fare lo sguardo torvo, l'abbiamo provato. Ehi, Ted, tu stai facendo lo sguardo triste. È l'unico che ho. Non ci credo. Ora andiamo, facciamolo bene, da capo. Concentrati e azione. Insomma, è tutta una questione di vista. Gli occhi comunicano, condizionano i nostri comportamenti e le nostre relazioni, ma non è finita qui, perché la vista condiziona la nostra postura. Ne parliamo con il professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale. Professor Di Pietro, buongiorno. Ma buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ospiti, a sua disposizione. Professore, occhi e postura, che relazione c'è? È pazzesco, a volte non ci pensiamo, ma lei non ha idea di quante problematiche, per esempio arachide cervicale, ma anche dolori ai muscoli che sono dietro le spalle, i trapezi, sono dati proprio dal non essere andati dall'oculista a farsi controllare. E le spiego. A parte che noi abbiamo veramente in Italia un'eccellenza nell'oculistica e grazie a loro appunto molti dolori al collo e alla cervicalgia non ci sono. E per questo immagini il nostro cranio con questi due radar che sono gli occhi, che sono belli vispi e continuano a guardarsi in giro, a guardarsi attorno. Se loro sono perfettamente in asse tra loro, se hanno la stessa quantità di capacità visiva, allora il nostro cranio si muove in modo corretto. Ma quando uno o due vede un po' meno, lei ci pensi bene, per mettere a fuoco bene cosa fa? Iniziamo a ruotare il nostro cranio, oggi, domani, dopodomani, tanto tempo. Questo comporta quindi un affaticamento della nostra colonna cervicale, dei nostri muscoli cervicali, con dei danni che a volte possono anche essere seri. E non solo questo, ma anche quando abbiamo per esempio l'utilizzo improprio di occhiali, magari non usiamo gli occhiali come ha detto il nostro oculista, iniziamo a portarli male, a portarli più giù, vediamo che non vanno scivolano, bene, andiamo a scivolano sul naso, certo. Appunto, ecco, in questo caso si sposta proprio il fuoco della lente, e saranno più precisi ovviamente gli oculisti in questo, e quindi noi dobbiamo adattare il nostro cranio, quindi la nostra cervicale deve adattare il cranio per poter vedere bene con i nostri due piccoli e vispi radar che abbiamo nel nostro cranio. Mi piace questa delle... mi piace paragonare gli occhi ai radar. Lei, diciamo così, sostenere ancora di più questa cosa citando due condizioni che sono da una parte ad esempio l'astigmatismo che ho detto prima, che costringe o induce il soggetto a volte a tenere la testa ruotata per vedere meglio. Sì, capita spesso anche davanti alla TV di vedere persone, bambini con la testa un po' ruotata. Un po' così. L'altra cosa sono difetti congeniti dei muscoli oculari o della binocularità, per cui per evitare lo sforzo di mettere insieme gli occhi, tenere la testa in una certa posizione aiuta. Ma allora, per capire se la relazione tra i miei occhi e la mia postura gode di buona salute, c'è un modo. Ne parliamo subito dopo con il professor Di Pietro che resta con noi. Noi andiamo a sentire i mercati, poi il meteo e poi torniamo di nuovo qui. 800 24 00 24. Intanto, se voi volete anche raccontarvi che sguardi avete intercettato, che sguardi vi sentite addosso e che sguardi magari usate per parlare con la persona davanti, che avete davanti, io sono qui. Oggi una puntata tutta dedicata allo sguardo. Essere e benessere. Occhi e postura, professor Di Pietro, come faccio a capire se vedo bene e se magari una visione non corretta mi può provocare alla lunga dolore alla cervicale, muscoli tesi? Certo. Allora, vediamo qualche, magari, se può essere gradito, qualche esercizio per vedere cosa ne dice. Mi piace. Ok, allora, per esempio, uno da fare in due, uno da fare da soli, veloci. Uno da fare in due. Sì, lo faccio con il dottor Cialdone, ok. Ok. Pronti. Allora, una persona davanti all'altra, ovviamente, e una persona che riceve l'esercizio osserva il dito indice della persona che gli sta di fronte a circa un metro di distanza. Sì. Il dito indice della persona che fa fare l'esercizio va verso destra, va verso sinistra, torna al centro e poi si avvicina fino ad arrivare verso il centro degli occhi, sopra il naso di chi riceve l'esercizio, osservando bene i suoi occhi. Potrebbe essere che a un certo punto uno di due occhi cerca di scappar via, cioè non riesce a, i muscoli non riescono a farlo convergere bene. In quel caso, tranquilli, non c'è problema, però un oculista ci potrà aiutare a non farci venire ulteriormente un dolore al collo. Quindi un esercizio molto semplice da fare in coppia, mentre se siamo da soli, per i single... No, se siamo da soli bisognerebbe avere due bilance, pensi un po', essere da soli e avere due bilance può essere utile per la nostra postura. Mettiamo i due bilance vicine, le tariamo e mettiamo piede destro su una bilancia, piede sinistro sull'altra. Dopodiché proviamo a chiudere un occhio, prima il destro, e verifichiamo che cosa succede sulla bilancia. Chiudiamo l'occhio sinistro, verifichiamo cosa succede sulla bilancia. Se gli spostamenti di peso che devono esserci, perché andremo a guardare in modo non uniforme tra due occhi ma soltanto con una parte, sono troppo diversi tra loro, allora sempre andiamo a trovare il nostro amico oculista che ci aiuterà a non farci venire dolore alla schiena. Allora ricordatevi le due bilance se siete da soli, o se no procuratevi un compagno. Guardatelo bene negli occhi e guardate soprattutto che cosa fanno i suoi occhi. Abbiamo in linea Tatiana dalla provincia di Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuta. Grazie. Allora, io volevo porre questo quesito al dottore. Volevo capire se è possibile anche la situazione opposta, cioè se un problema posturale, soprattutto a carico lato cervicale, può provocare dei problemi alla vista, e quindi non sono gli occhi. Visione. Certo, quindi non gli occhi che condizionano la postura, ma la postura che condiziona il nostro modo di vedere. Dottor Cialdone, professor Di Pietro? Nella mia parola all'oculista. No, certo, nella mia esperienza, nei casi abbastanza, diciamo così, gravi di alterazioni della colonna vertebrale, questo può succedere. Ma in una persona giovane come questa che sento dalla voce alla radio, non so, sentirei il Di Pietro cosa professor pensa. Professor Di Pietro, secondo lei è una relazione che va sempre solo in una direzione o ci possono essere... No, può essere non a senso unico, però come diceva giustamente il nostro preparatissimo oculista, è relativo soltanto quando ci sono dei problemi molto seri alla colonna cervicale. Possono essere anche a volte... tramite la colonna cervicale legati a delle malformazioni molto importanti della nostra masticazione, però devono essere veramente importanti. Certo. Come altre, non entriamo magari in argomento che non è la puntata di oggi, però quando abbiamo la non possibilità di usare bene o perdiamo la nostra curva naturale della cervicale, sicuramente anche i muscoli oculari non lavorano bene. Assolutamente, perché siamo tutti, no? Siamo tutte collegate, le catene muscolari ci condizionano. Invece potrei, diciamo, invertendo un attimo la cosa, il punto di vista, citare gli occhiali progressivi. Sì. Gli occhiali progressivi ormai ce l'hanno tantissime persone, giustamente dopo i 45-50, perché permettono di vedere a tutte le distanze, eccetera, eccetera. Però sono occhiali molto critici da un punto di vista della costruzione della centratura, devono essere precisi. Perfetti. Altrimenti si induce nella persona una postura errata della testa per cercare di compensare il decentramento delle lenti. Quindi può cominciare a far male la schiena e il collo nel tentativo di vedere meglio. Ecco, quindi se avete le lenti progressive e iniziate a sentire dolore alle spalle, alla cervicale, eccetera, dirò di più, se fate i progressivi e non vi trovate, invece che pensare automaticamente è colpa mia, non va bene, tornate dall'ottico e spiegategli esattamente qual è il problema per il quale non riuscite a vedere. Certo, bene. Perché il professor Di Pietro diceva abbiamo degli ottimi oculisti e abbiamo degli ottici eccezionali. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi. Farò l'esercizio insieme a Laura Vanossi e poi le farò sapere. Mi permetta un abbraccio a tutti gli ascoltatori che non vedono con gli occhi ma guardano col cuore. Un abbraccio anche a loro. Grazie, poi Radio 24 è la radio ufficiale anche del non vedente e gli ipovedenti, e questo abbraccio lo estendiamo. Voglio salutare il dottor Lupino, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a mio amico Antonio Sordone, buongiorno a chi ci ascolta. Dermatologo plastica a Milano e a Catania, responsabile nazionale del Dipartimento Laser dell'ISPLAD. Perché con il dottor Lupino e insieme al dottor Cialdone vogliamo provare a guardare i nostri occhi come se fossimo davanti allo specchio. Ma intanto voglio salutare Rita che ci chiama da Roma, e intanto voi preparatevi, non avrete immagino uno specchio a portata di mano, ma ci conosciamo, parleremo delle palpebre, spesso con gli anni tendono a cadere, di zampe e di gallina, ma anche della forma dei nostri occhi, delle nostre pupille, perché la pupilla è fatta proprio per dilatarsi e per stringere, della sclera, delle venuzze. Guardate bene i vostri occhi. Intanto andiamo a sentire Rita. Rita, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. In pratica la risposta credo di averla già avuta, perché volevo chiedere se l'utilizzo di lenti progressive può essere la causa del mio continuo mal di collo. Rita, ma noi abbiamo degli esperti che anticipano, ci tolgono addirittura la parola al piacere di fare le domande. Ci dicono allora, troppo. La risposta probabilmente è che se ha il mal di collo perché deve tenere la testa un po' in alto, i suoi progressivi sono decentrati verso il basso. Lei così me lo dice? Ma non lo so, di solito faccio i tarocchi, ma questa volta. No, ma nel senso, quindi si riesce a seconda, dimmi dove hai male, ti dirò il tuo occhiale dove sbaglia. In questo caso diciamo che è una questione fantastico di probabilità. Rita, forse è così, quindi non è colpa sua, ma vada, si rivolga naturalmente dall'ottico e chiederà, dirà, deve, ho però sentito non, essere non faccia essere lamentele vaghe, ma esattamente il tipo di problema che ha, e l'ottico capisce con uno sguardo. Rita, grazie, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme perché parliamo anche della forma dei nostri occhi, dei trattamenti per mantenerli belli, giovani, perché lo sguardo comunichi proprio tutta la parte migliore di noi. Essere e benessere. Per me parte tutto dagli occhi. Deve avere quel tipo di sguardo che sa andare oltre la superficie, dritto dentro l'anima. 20% angelo, 80% diavolo. 20% angelo, 80% diavolo. Però, dottor Lupino, i nostri occhi, si dice sempre, sono lo specchio dell'anima, eccetera, eccetera. È vero, però dicono anche molto del nostro stile di vita e degli anni di vita. Dicono che se ci riferiamo ad esempio che la forma può essere modificata dalla presenza delle energetiche borse sottopalpebrali o da quella che noi chiamiamo calasia delle palpebre, cioè l'abbassamento della palpebra superiore, la forma dell'occhio cambia molto. Cambia. A proposito di borse odiatissime, ci sono delle persone che farebbero di tutto per eliminarle, ma quello che le chiedo, c'è modo di evitare che si trasformino in valigie? Beh, dei piccoli modi molto pratici per chi ci ascolta esistono, anche se devo dire c'è una certa predisposizione genetica o familiare che condiziona la presenza delle borse. Sì. Un piccolo aiuto ci può essere dato dalla ginnastica manuale sulle palpebre, che sono, vi ricordo, la zona più sottile del nostro corpo, inferiore ai 2 mm, e quindi questo condiziona la presenza di ristagni di liquidi, il cosiddetto edema palpebrale. Sì. Questo è quello che rappresenta la causa delle borse sottopalpebrali, che possono essere evitate nel loro inizio dall'uso di un cuscino un po' più alto. Mm. Io dico sempre di far mettere sotto il cuscino una piccola coperta, perché la posizione, il decubito sia è superiore di 1 o 2 cm. Sì. Già questo condiziona il ritardo delle borse sottopalpebrali, che possono essere anche aiutate nel loro deflusso edematoso da uno scarico verso l'esterno delle dita sulle stesse borse, quindi dei piccoli massaggi, dei piccoli massaggini sulle borse, facilitare il flusso sulle nostre borsette. Senta, invece altro. Ma, scusate, c'è una qualche pomata, crema, una qualche sostanza che consigli? È interessante, sì, guarda, dottor Cerdone. Sì, delle creme molto rilassanti, oppure che stabilizzano gli scambi tra l'interno e l'esterno delle cellule palpebrali. Sono per esempio i fosfolipidi di soia, che oggi vanno molto di moda, perché sono degli stabilizzanti naturali, quindi delle creme a base di fosfolipidi di soia. Questo dobbiamo cercare. I fosfolipidi di soia hanno questa attività di stabilizzazione degli scambi metabolici tra le cellule. Dottor Lupino, parliamo anche delle occhiaie. Ecco, noi donne cerchiamo di correggerle con il correttore, a volte sì, insomma, riusciamo. Il correttore già si può utilizzare un buon mezzo, perché ad esempio per le occhiaie che hanno il colorito violaceo possono essere efficacemente ridotte dal punto di vista del maquillage con un correttore giallo. Il giallo dal punto di vista della cromia elimina il viola. Però se dobbiamo considerare che le occhiaie sono rappresentate da una condizione altrettanto geneticamente determinata, di un rallentamento del flusso sanguigno, dalla presenza di una pelle estremamente sottile che fa vedere in trasparenza le vene più profonde, le occhiaie possono essere oggi ridotte nella loro manifestazione dall'utilizzo di sostanze come il retinolo, che facilita un rinnovamento cellulare superficiale, quindi epidermico, e dalla vitamina K1, che ha un'attività antinfiammatoria e può essere utile nella gestione di questo inestetico. E sono il retinolo e la vitamina K1 si trovano in alcuni cosmetici che sono proprio indicati per il contorno occhi. Esattamente. Che sono delle formulazioni molto particolari, perché devono assicurare. Non possono essere utilizzate naturalmente in quanto per la presenza di retinolo in ambito estivo, però durante la stagione invernale possono essere utilizzate. La glucosammina anche può essere utilizzata per le occhiaie, la vitamina C, che è un depigmentante, perché le occhiaie rappresentano poi un vero e proprio tatuaggio, perché c'è un rallentamento, quindi c'è un passaggio di globuli rossi all'esterno e si provocano delle piccole macchioline marroncine che possono essere eliminate con l'utilizzo anche di depigmentanti per brevi periodi. A proposito di macchioline, la nostra sclera, la parte bianca del nostro occhio, non è proprio, noi diciamo il bianco dell'occhio, in realtà non è proprio bianco, sembra più bianco quando siamo abbronzati, ma per contrasto, ma a volte ha delle, oltre delle piccole venuzie, ha delle macchioline. Beh sì, ci capitano, e sono quelle più frequenti sono temporale e nasale, cioè parte esterna e parte interna, tra il bianco e il colorato, nella fessura tra la palpebra superiore, quello che vediamo, insomma, sono macchioline, diciamo, sul giallastro, che a volte si irritano, diventano un pochino più scure, un po' più giallo scuro. Nella maggioranza dei casi sono questioni di tipo familiare, spesso ce l'hanno anche i genitori o i nonni, eccetera, si acuiscono abbastanza spesso con l'andare degli anni, perché degenerano un pochino, non sono, nella maggioranza dei casi, 99% non sono tumori, e quindi vanno tollerate mettendo qualche collirio qualche volta quando ne abbiamo bisogno, eccetera. Nelle persone invece che ormai in Italia sono piuttosto numerose, che sono provenienti, stranieri ormai residenti da noi, provenienti da paesi del sud, non so, Sud America, Sud Africa, Filippini, eccetera, si sviluppa con una certa frequenza un'alterazione che invece va operata, che si chiama pterigio, che è, anche persone molto giovani, che è la crescita di una specie di lingua carnosa che si irrita. Una lingua carnosa. Che cresce al di sopra del colorato, esatto. Certo. 800 24 00 24, abbiamo spazio per parlare anche con Francesco dalla provincia di Bari. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno a tutti. La mia domanda è questa: io non ho mai portato occhiali, sono circa oltre più di un anno che porto gli occhiali, però come stavate parlando voi, a me non sono progressive, cioè io da lontano ho quelle normali, diciamo, poi per leggere metto quegli altri per vederli da vicino. E allora? E niente, prima dei giramenti di testa. Quindi, molte, ecco, volte. Allora Francesco ci dice: se noi mettiamo gli occhiali, sentiamo o dolori muscolari o giramenti di testa, questo è un segnale che ci porta a capire dall'oculista. Che dall'oculista e dall'ottico, per vedere come si può evitare questo problema, perché gli occhiali devono aiutare a vedere meglio, a stare meglio, non a darci ulteriori problemi. Volevo ricordarvi, prima di salutarvi, che c'è alla Fiera di Milano, a Rho Fiera, la prima edizione italiana di Rete Che Italia, è un evento sul mondo della disabilità. Voi sapete che Radio 24 è la radio ufficiale degli ipovedenti e non vedenti. Bene, nell'ambito di questo evento è presente anche la stamperia regionale Braille della Sicilia, che presenta il Polo Tattile Itinerante, un'occasione anche per così promuovere un progetto di integrazione culturale e sociale dei non vedenti e ipovedenti. C'è un autobus appositamente strutturato per questo scopo, dove sono stati realizzati due ambienti. Nel primo c'è un'area espositiva con ausili e articoli tecnici, nel secondo è stato allestito un bar al buio. Molti di voi mi hanno scritto che hanno fatto questa esperienza, per cui se siete a Milano o se passate da Milano, ricordatevi, avete la possibilità di fare un salto e conoscere più da vicino questa realtà organizzata proprio dalla stamperia regionale Braille Onlus della Sicilia. Dottor Lupino, dottor Cialdone, grazie per essere state con noi, grazie a voi che ci avete seguito. Seguiteci, scriveteci, scaricateci, insomma, teniamoci in contatto. Intanto buon weekend, ci sentiamo lunedì. Essere e benessere.